Ben più di metà dell'energia che consumiamo, quasi tutta importata dall'estero, non serve a produrre elettricità ma calore per le case e per i processi industriali. Eppure negli ultimi anni, come dimostrano anche il recente dibattito sul nucleare e sugli incentivi al fotovoltaico, tutta l'attenzione è stata concentrata sulla produzione di elettricità. Invece, come è emerso recentemente nel corso della seconda conferenza delle rinnovabili termiche, dai pannelli solari per l'acqua calda alle biomasse, dalle pompe di calore alla geotermia a bassa temperatura, potremmo coprire il 17% di produzione di energia da rinnovabili che ci chiede l'Europa con le sole rinnovabili termiche. Questo con un costo per la collettività dello stesso ordine di grandezza dei finanziamenti concessi in 1, 2, 3 anni al massimo al fotovoltaico. Un dato a cui bisogna aggiungere che l'industria italiana è molto più competitiva su queste fonti che non su quelle elettriche e che quindi, puntando maggiormente su di esse, potremmo tenere sul territorio nazionale una quota più elevata degli incentivi sborsati dagli italiani. Maurizio Melis, Radio 24, Il Sole 24 Ore.